Va bene, questa è la comunicazione multimediale del 28 novembre del 2012. Allora, mi pare che dobbiamo ancora, abbiamo cominciato a parlare del valore linguistico dei segni, secondo Saussure l'ultima volta, però non abbiamo concluso l'argomento. Finiamo con un capitoletto che leggiamo sempre del corso di linguistica. Ah no, e poi devo fare un attimo, sì, adesso. Rapporti sintagmatici e rapporti associativi, va bene. Allora, il capitolo quarto della prima parte il capitolo quarto della seconda parte, quindi stiamo già studiando un po' di linguistica sincronica, insomma, no? Si chiama il valore linguistico. Facciamo i primi due, no, forse il primo e l'ultimo paragrafo. La lingua come pensiero organizzato nella materia fonica. La lingua come pensiero organizzato nella materia fonica sonora. Per capire che la lingua non può essere se non un sistema di valori puri, basta considerare i due elementi che entrano in gioco nel suo funzionamento: le idee e i suoni. Psicologicamente, ma questo l'abbiamo già fatto? Allora, scusate, non mi sono sbagliato, perché io non ho tenuto conto, ho fatto anche l'altro. Io comunque volevo dire, cioè, ci pensavo, del valore, della parola che c'è nella linguistica, no? In ebraico, per esempio, c'è un valore per ogni segno. Un? Valore? Sì. Per ogni segno, diciamo, una lettera, questo vale anche un numero. Ah, ho capito, sì. Non esiste nell'alfabeto. No. Noi nella... questo è come i greci, ma però riguarda più la scrittura, che non, perché avete un nome per i numeri diverso da quello per le lettere, no? Uno non è Aleph, Aleph, uno non è Aleph, non è come gli altri. No, cioè la vale uno. Sì, ma per dire uno voi avete una parola per dire uno. Sì. Quindi è una questione, Romy, che riguarda la scrittura, non la parola. Ma quello che pensavo è che noi, come stiamo facendo questo corso, come un corso obbligatorio, no? Nella rete c'è un valore anche per ogni segno che sia una lettera, che c'è codice ASCII, okay. No? Sì, per cui vale i numeri, c'è... Perfetto, ci arriviamo. La forma è cambiata. Certo, ci arriviamo a questo, certo. Quando poi cominceremo a parlare dei segni digitali, cioè del modo in cui ovviamente parleremo anche di questo. Adesso qui stiamo facendo tutta una fase, in cui ancora tutte le robe funzionano come se il computer non ci fosse ancora, cioè nel senso che d'altra parte, il computer per noi è ovviamente importante, perché però è una cosa molto recente nella storia dell'uomo, non è che, quindi diciamo, il linguaggio si è formato in un modo molto lungo, molto sedimentato, molto in cui il computer non... Poi a un certo punto è arrivato. Quando sarà arrivato il momento, tu fai bene fai bene a dirle queste cose e a porle. Però poi ci arriviamo lo stesso. Allora, sul valore abbiamo detto quasi tutto, insomma, sì. Allora, vediamo se vi ho letto questo. Paragrafo 4, che è forse questo che devo ancora leggere, certo. Il segno considerato nella sua totalità. Tutto ciò che precede si risolve nel dire che nella lingua non vi sono se non differenze. Questo non l'avevamo ancora detto bene, ok? Allora, e questa è la roba fondamentale. Segnatela, perché questa è la concezione della lingua di Saussure, ed è quella che ha influenzato tutta la linguistica del XX secolo. Tutto ciò che precede si risolve nel dire che nella lingua non vi sono se non differenze. L'arbitrarietà del segno vuol dire sta tutta qua. Non c'è nessun rapporto di necessità né tra un significante e l'altro, né tra un significato e l'altro, né tra un segno e l'altro, né tra un significante e il suo significato, no, non c'è nulla. Non possiamo illuderci di poter mai trovare un rapporto, cioè un criterio dal quale possiamo dedurre questi rapporti. Perché il cane si chiama cane per gli italiani, perché si chiama perro per gli spagnoli, perché si chiama... La lingua non è una nomenclatura, la lingua non è un sistema di designazione del mondo. Dal punto di vista interno, la lingua è semplicemente un sistema basato, è un insieme di differenze. Sono le differenze che fanno la lingua, nient'altro. Quindi poi noi gli aggiungiamo significato, il senso, eccetera, ma scordiamoci che nel funzionamento reale di un sistema linguistico ci sia qualcosa di più di una relazione. Sono pure differenze, quindi relazioni diverse, no? Da fra un segno e l'altro, fra un significato e l'altro, fra un significante e l'altro, tra un significante e il suo significato. Ma sono sempre differenze. Di più, una differenza suppone, in generale, dei termini positivi tra i quali essa si stabilisce. Ma nella lingua non vi sono che differenze senza termini positivi. Cioè, in generale, se io dico c'è una differenza tra un libro e un registratore, perché dico che c'è una differenza? Perché io posso descrivere il libro, come è fatto, un libro è un insieme di fogli di carta stampati con due fogli più pesanti, uno prima e l'altro alla fine, chiamati copertina, eccetera. Invece il registratore è una cosa che si apre dentro, c'ha dei circuiti, se è digitale, li posso descrivere, no? C'ho dei termini positivi. Bene, non è questa la differenza che c'è all'interno di un sistema linguistico. Non ci sono degli elementi positivi, non è questo che conta, non è il fatto che, certo, ci sono di base, se io posso descrivere la differenza che c'è tra un fonema B e un fonema C, tra una labiale esplosiva e una gutturale, cioè, certo, posso andare a vedere come atteggio gli organi fonatori per pronunciare B e per pronunciare C. Posso farlo, può anche essere utile, ma non è la cosa fondamentale per descrivere il sistema linguistico. La cosa fondamentale è semplicemente che noi tutti, ascoltatori, noi che parliamo volenti o nolenti la lingua italiana in questo momento, abbiamo imparato a riconoscere questa differenza. Sappiamo che c'è differenza tra B che punto a cappio punto basta, non c'è nient'altro dietro, è una pura differenza di riconoscimento, no? Noi riconosciamo che c'è una differenza di riconoscimento, basta. Questo è sufficiente, è necessario e sufficiente per spiegare come funziona il quindi si prenda il significante o il significato. La lingua non comporta né delle idee né dei suoni che preesistano al sistema linguistico, ma soltanto delle differenze concettuali. Certo, la differenza concettuale tra libro e registratore, certo, ma non è detto che io devo andare a descriverli, andare a vedere positivamente come sono fatti. So che sono differenti, il concetto di libro, il concetto di bello, il concetto di brutto, il concetto di utile, tutti i concetti che uso, so che sono differenti l'uno dall'altro. E poi ho delle differenze foniche, so che B non è che, so che P non è T, eccetera, eccetera. Ciò che vi è di idea o di materia fonica in un segno importa meno di ciò che vi è intorno ad esso negli altri segni. La cosa importante è che io sappia che c'è un'opposizione, che il sistema è fatto di tante piccole o piccolo grandi opposizioni distintive, B, C, P, T, eccetera, eccetera. La prova è che il valore di un termine può essere modificato senza che si tocchi nel suo senso né i suoi suoni, ma soltanto dal fatto che questo termine vicino, che questo o quel termine vicino abbia subito una modifica. Se qualcosa si modifica nel corso della diacronia di una lingua, è ovvio che sì, questo cambiamento si ripercuoterà anche sugli altri segni, no? Ma non è che si tocca il segno, cioè la parola cambia magari nel modo di essere pronunciato, cioè c'è un cambio di vocale, un cambio di consonante, eccetera, ma il concetto per esempio non cambia, no? Vuol dire sempre la stessa cosa, semplicemente col tempo c'è una evoluzione del sistema. Ma dire che tutto è negativo nella lingua è vero soltanto del significato e del significante presi separatamente, attenzione. Dal momento in cui si considera il segno nella sua totalità, allora no, è ovvio. il sé nella sua totalità vuol dire che ci troviamo in presenza di una cosa positiva nel suo ordine. Perché c'è l'ordine del segno, allora sì, il segno, se la parola libro, una volta che so che l'insieme di suoni italiani libro indica questo oggetto o la sequenza bontà indica questa chi lo sa se esiste, questa fittizia qualità chiamata bontà, effettivamente uno può passare tutta la vita senza pensare, senza averla mai incontrata nella sua vita la bontà, ma se siete ottimisti ovviamente penserete il contrario. Comunque sia, insomma, se anche uno non l'ha incontrata la bontà, può pensare che ci sia. Bene. Allora, da questo punto di vista, l'insieme dei segni, no, certo che c'è una cosa positiva. Un sistema linguistico è una serie di differenze di suoni combinate con una serie di differenze di idee. Ma questo mettere di faccia un certo numero di segni acustici con altrettante sezioni fatte nella massa del pensiero genera un sistema di valori. Eccolo dov'è il sistema di valori. Quando io ho connesso il significante con il significato, quindi l'immagine acustica con il contenuto mentale, è chiaro che allora questo vale. La parola libro nella lingua italiana, la parola book nella lingua inglese, la parola livre nella lingua francese, la parola buch nella lingua tedesca, basta che non ne so più, hanno una qualche relazione, certo, una volta che li ho messi, indicano un certo oggetto, indicano un certo insieme di proprietà, eccetera, eccetera. Allora, questo sì che è una cosa positiva, va, può essere descritta in termini positivi, questo rapporto tra l'insieme di suoni libro e l'oggetto libro. Ed è questo sistema che costituisce il legame effettivo tra gli elementi fonici e psichici all'interno di ciascun segno. Benché il significato e il significante siano, ciascuno preso a parte, puramente differenziali e negativi, la loro combinazione invece è un fatto positivo. È altresì la sola specie di fatti che comporti la lingua, perché il proprio dell'istituzione linguistica è per l'appunto di mantenere il parallelismo tra questi due ordini di differenze. Nel campo dei suoni ho soltanto differenze, nel campo dei concetti ho soltanto differenze, ma quando li accoppio, quando accoppio i segni con i suoni, posso descrivere positivamente un sistema che ovviamente è fatto di questi segni, che sono nient'altro che, abbiamo visto, un rapporto tra un suono e una differenza. Dal momento in cui si confrontano tra loro i segni, la totalità di significante e significato, termini positivi, non si può più parlare di differenze. L'espressione sarebbe impropria, perché non si applica bene che al confronto di due immagini acustiche, per esempio padre e madre. Padre e madre sono due parole nella lingua italiana che differiscono per un suono consonantico all'inizio. P, M. Quindi qui c'è una differenza. Allora, la differenza sussiste tra le parole padre e tra la parola padre e la parola madre, o tra l'idea di padre, il concetto di padre e il concetto di madre. Ma questi due segni comportano, che ciascuno dei quali comporta un significato e un significante, come segni non sono differenti, sono distinti, diversi, ma non posso dire che si basano su una pura e semplice differenza, perché ho già fatto la combinazione, ho già messo in relazione due sistemi, due serie diverse. Tra loro non c'è che opposizione. Tutto il meccanismo del linguaggio, di cui si farà parola più oltre, poggia su opposizioni di questo tipo e sulle differenze foniche e concettuali che essi implicano. Unità e fatto di grammatica non si confonderebbero se i segni linguistici fossero costituiti da altra cosa che non le differenze. Ma la lingua, essendo quello che è, da qualsiasi lato la si abbordi, non si troverà mai niente di semplice. Dappertutto è sempre questo stesso equilibrio complesso di termini che si condizionano reciprocamente. Detto altrimenti, qua anche questo incidetevelo col fuoco nella testa, detto altrimenti, la lingua è una forma e non una sostanza. È una forma e non una sostanza. Cosa vuol dire che è una forma e non una sostanza? Dimmi. La parola sostanza cosa vuol dire? Ci arriviamo. La parola sostanza implica un mitico, o non si sa se ci sia o no, ma insomma è qualcosa che noi... è l'insieme delle proprietà basilari che caratterizzano un certo oggetto, un certo concetto, una certa idea, la sostanza. L'uomo ha una sostanza, nel caso dell'uomo più che di sostanza noi parliamo di natura, ma diciamo, se ci fosse qualche cosa, poi ovviamente possiamo dubitare che ci sia, ma se ci fosse qualche cosa chiamato natura umana, se ci fosse una natura umana, cioè un insieme di caratteristiche uguali per tutti gli esseri umani, questa sarebbe una sostanza. Una forma invece è il modo in cui gli elementi di una composizione sono organizzati, una forma, una figura, un quadro. Se stiamo parlando per esempio su Aristotele, lui sta parlando della sostanza, no? Ok, va bene. Ma sta parlando dell'inizio, quello che, con cui nasce una persona o la natura umana che cambia col tempo, sì. È quello che sostiene, diciamo, cioè, il punto a cui arriva, cioè, questo è giusto. In Aristotele e anche in altri pensatori la sostanza è collegata con l'origine, è vero, cioè c'è una sorta di predestinazione, insomma, no? Si è quello, qualcosa del genere disse anche Nietzsche, diventare ciò che si è, si diventa ciò che si è, vuol dire che quando nello sviluppo della propria vita non si fa altro in qualche maniera che realizzare certe promesse che ognuno ha fatto a se stesso, promesse implicite, evidentemente, non promesse. Allora, in realtà però questa idea che ci sia una sostanza, poi vedremo, insomma, la sostanza è... il pensiero sostanzialista porta a delle grandi contraddizioni, a delle grandi, diciamo, aporie, quindi a un certo punto qualcuno si è convinto, io tra questi, ma ovviamente non sono così importanti, ma prima di me c'è stato Nietzsche, metà della filosofia del Novecento, eccetera, che in realtà la sostanza è meglio pensare che non esista, che ci sia soltanto del divenire, che l'essere non sia altro che una fotografia, un'istantanea di qualcosa che invece diviene in continuazione, capito? Che diviene sempre, insomma. Allora, la cosa importante però è che è, adesso poi uno però può credere che ci sia lo stesso una sostanza, però il linguaggio non è una sostanza, cioè non è un qualche cosa di descrivibile in quanto tale, con un insieme di tratti positivi. Il linguaggio è fatto così, così, cioè siamo sempre lì, non c'è nessuna necessità, una sostanza è qualcosa che in genere è necessitato, cioè se uno ha una certa sostanza finirà che fa solo quella, se la mia sostanza è di essere buono, sarò buono nel corso della vita, se la mia sostanza è di essere cattivo, sarò cattivo, se la mia sostanza è di essere intelligente, sarò intelligente, se è di essere stupido, sarò stupido. In realtà voi non conoscete nessuna persona che sia soltanto buona, soltanto cattiva, soltanto intelligente o soltanto stupida. Non, sapete che non è così. Per gli esseri umani, gli esseri umani sono tutti siamo un po' stupidi, un po' intelligenti, facciamo delle cose stupide, facciamo tutto, siamo pluripotenti, abbiamo la possibilità di fare un sacco di cose diverse tra loro, a volte opposte, quindi questa è una cosa che dovrebbe metterci sull'avviso del fatto che, per esempio, il concetto di natura umana è un po', forse è dubbio, insomma, o il concetto di sostanza è dubbio, ma la cosa fondamentale che ci dice il Signore è, guardate che il linguaggio quindi non è in nessun modo una sostanza, non c'è nessuna necessità nel modo in cui una lingua si sviluppa, e neanche diciamo, il linguaggio in quanto tale. Posso aggiungere un commento a questa a questa fondamentale frase, concetto di, diciamo, Saussure. Questa è la vera ragione per cui il linguaggio è tanto ricco e tanto potente. Ecco perché può rifare il mondo. Ecco perché può costruire un mondo. Perché è forma, non è sostanza. Se fosse una sostanza, sarebbe limitato. Potrebbe fare solo ciò che gli è permesso da quella sostanza. No, il linguaggio può fare di tutto. Il linguaggio può costruire tutti i tipi di mondi possibili, che io, esattamente come l'immagine, forse anche più dell'immagine. E questa è una delle cose che tenteremo di indagare poi nei passi successivi del corso. Ma può farlo perché? Perché è forma, perché è un insieme di relazioni differenziali tra significanti e significati. Ecco perché. Se non fosse questo, se ci fosse un qualche cosa che implica, che necessita, che limita questo rapporto tra significanti e significati, il linguaggio non sarebbe così potente, non sarebbe così forte. La sua potenza sta nel fatto che è forma e non sostanza, che è qualcosa di formale e non di sostanziale. È chiaro, pensateci ancora bene, perché questa è la, io credo che questo sia il fulcro della concezione del linguaggio di, diciamo, Saussure. Allora, la cosa successiva ve la faccio senza leggervi, però Saussure non vi darò neanche i testi a questo punto, perché comincia a diventare troppo complicato. La cosa importante è che voi capiate, no? Però leggiamo il capitolo che viene dopo, che è il capitolo quinto, si chiama Rapporti sintagmatici e rapporti associativi. E quindi vuol dire che stiamo arrivando a una successiva differenziazione della langue, e cioè quella tra il sintagma, tra i rapporti sintagmatici della langue e i rapporti associativi o paradigmatici. E adesso questa, quindi, adesso non ve la leggo più, perché se ve lo leggo poi è complicato ed è lungo, ve lo dico io, insomma, come Saussure versione Caronia, insomma, che può essere che sia un'interpretazione anche eccessiva, insomma, la mia. Non è complicato da capire, è uno sviluppo dell'idea che il linguaggio è un sistema di differenze formali e non un sistema di sostanze. Il sintagma è semplicemente la concreta produzione fonica di un atto di parola. Quando io metto insieme delle parole una dietro l'altra dotate di significato, faccio dei sintagmi. Quello che sto facendo adesso sono sintagmi. Quando uno scrive una frase, fa un sintagma. Quest'anno il limite della neve sul Monte Bianco si è elevato di 200 metri. Punto, è un sintagma. È qualcosa che esprime uno stato di fatto, vero, falso, sbagliato che sia, eccetera. Siccome noi lo facciamo, questa cosa la facciamo, perché questo è parlare, parlare e costruire sintagmi. Parlando non facciamo altro, parlando e scrivendo ovviamente, ma insomma parlando, non facciamo altro che costruire sintagmi. Quindi, siccome abbiamo imparato a farlo tanti anni fa, io più di voi, ma insomma ormai anche voi un bel po' di anni fa, lo fate tutti i giorni, è come camminare. Non ci pensiamo più, non siamo a pensare. Oggi Caronia ha fatto una lezione particolarmente noiosa, appunto. Voi non state a pensare, se voi vedete il libro, adesso cosa metto? Metto oggi, metto ieri, metto domani, metto la settimana scorsa, metto. No, dite oggi perché sapete quello che volete dire. In realtà dietro a questa scelta, voi però avete scelto, avete scelto una parola, oggi, today, aujourd'hui. L'avete scelta all'interno di una lista che avete in testa, ma non ve ne rendete conto, non ce ne rendiamo conto, nessuno. C'è una lista nella nostra testa, che è quella degli avverbi di tempo, nella lingua italiana, in quasi tutte le lingue che noi parliamo. Ieri, oggi, domani, dopodomani, la settimana scorsa, nel 1912, e così via. Non sono solo parole, sono anche combinazioni di parole. Sono tutti, questi qui sono tutti sintagmi, tutti sintagmi. Una parola sì, ma è un sintagma. Sono sintagmi che si riferiscono al tempo, no? Quando voi dovete dire qualcosa, e volete dire la frase che ho detto prima, e volete parlare di oggi, volete parlare del giorno in cui siete, scegliete una tra queste parole. Scegliete la parola oggi, ok? Cosa fate? La pigliate e la mettete dentro una sequenza. Nella lingua italiana, se foste in inglese, per esempio, today non sarebbe la prima parola che dite, perché gli inglesi non mettono mai gli avverbi di tempo al primo posto. Quindi la prima parola probabilmente sarebbe caronia. In inglese sarebbe caronia, today had a particularly boring lesson. Questa sarebbe più o meno la frase inglese. Ma in italiano invece, nell'italiano c'è questa regola, questa cosa per cui si può dire anche, si può mettere anche dopo, però è più bello, cioè è più italiano l'avverbio di tempo al primo posto. Quindi voi la prima cosa che fate è dite oggi. Avete preso una parola e l'avete messa, è un sintagma oggi, ma voi state costruendo un altro sintagma più complicato. Più lungo, più complesso. Naturalmente, se subito dopo dovete mettere il soggetto, voi in questo modo avete una qualche idea di quali sono i professori che insegnano a Brera, quindi a Brera, diciamo al triennio di Brera, al biennio di Brera 2. Quindi diciamo, sapete che uno è un carolino, un carro pedoso, un carro 40, uno è un carro, vedete. Siccome voi volete parlare di me, prendete come seconda, come secondo termine quello, ok? A poco, è chiaro, costruite un sintagma. Vediamo come costruite, diciamo, oggi caronia, nella frase di Seriana la terza posizione sarà occupata dal verbo. Quindi dall'azione che ha fatto questo misterioso caronia, che ha qui potete scegliere quello che volete, potete dire ha tenuto una lezione, ha fatto una lezione. Diciamo, supponiamo che scegliate il verbo fare, che è un verbo generico in italiano che indica fare, l'inglese più o meno l'inglese to do. A questo punto però che cosa dovete scegliere del verbo fare? Nella lingua italiana, come tutte le lingue indo-europee, le parole che indicano una azione o uno stato di cose hanno una organizzazione interna per modi e per tempi. Indicativo, congiuntivo, imperativo, infinito, presente, passato, futuro, tra i passati, imperfetto, perfetto, più che perfetto, nel futuro, futuro anteriore, futuro semplice, insomma. Quindi voi, caronia, è una persona di cui parlate alla terza persona, quindi cosa potete dire? Fa. ha fatto, fece, farà, farebbe, non ci mettiamo neanche i tempi, diciamo, indefiniti, infinito, gerundio, eccetera, mettiamo solo i tempi che hanno una persona, però avete una bella scelta, no? E potete scegliere quale di questi verbi mettere a seconda di quello che volete dire, eh? Se state chiacchierando tra di voi mentre io parlo, se Romy parla con, non ricordo più come ti chiami? Luca. Se Romy parla con Luca, dice, Caronia fa una lezione noiosa oggi. Dici, fa, Caronia fa, perché la sto facendo. Se invece la cosa tu la dici a una tua amica dopo che la lezione è finita, probabilmente dirai, ha fatto, e giustamente. Se la dici tra una settimana, dovresti dire fece. Ma in realtà non lo dirai mai se parli l'italiano corrente, perché in italiano il perfetto è praticamente scomparso, tranne che in alcuni usi dialettali, in genere quelli del sud lo usano più correttamente di noi del nord, l'uso del verbo perfetto, ma insomma diciamo ha fatto un passato prossimo, come si dice, che è un tempo composto, ma insomma potete dire anche fece, no? Se dice sarebbe meglio, ma insomma. Allora, diciamo adesso, ne parlate oggi alla fine della lezione, scegliete ha fatto, ok? Mi sto spiegando? Tutte queste cose voi non, è come descrivere come si cammina, eh? Nessuno ovviamente lo fa coscientemente questo lavoro, però è come se lo facesse, anzi, lo fa in maniera inconsapevole. È come muove i muscoli delle proprie gambe in maniera inconsapevole e quindi cammina, senza pensare a quali sono i muscoli che deve muovere, se no si inciamperebbe, cascherebbe per terra, nessuno di noi potrebbe camminare, se... Infatti quelli di noi che hanno una sono dei problemi di coordinazione, per esempio tra respiro ed emissione del suono, sono affetti da un difetto che si chiama balbuzzi, vero? I balbuzienti sono persone che pensano troppo prima di pronunciare delle parole e quindi si bloccano perché non hanno la cosa. Allora, mentre noi costruiamo, adesso ci arriviamo, ma spero che sia chiaro a questo punto, mentre noi costruiamo un sintagma, come lo costruiamo un sintagma? Scegliendo da una serie di liste di parole, scegliendo inconsapevolmente da una serie di liste di parole, e questo vuol dire che se la produzione linguistica è una produzione di sintagmi, la struttura della lingua non è organizzata in sintagmi, è organizzata in queste robe qua. Se non ci fossero queste liste dietro, io non potrei parlare. Bene, queste liste cosa sono? Sono delle liste associative. Liste associative, le chiamiamo paradigmi. Il termine dovrebbe esservi familiare per chi di voi ha studiato la propria lingua a scuola, perché tutti impariamo più o meno, tranne lei che parla una lingua semitica, quindi è un'altra roba, è una lingua poi complicata, perché è una lingua che era morta, è stata fatta rivivere nel 1948, insomma, quindi noi. Era una lingua solo scritta, non c'era più l'ebraico parlato, per secoli e secoli si è tolto. Buongiorno. Quanti studenti hai? Un casino. Infatti te l'avevo detto, c'era una roba parziale. E chi c'è? Per fare qualcosa, non avevi capito? Li hai già picchiati tutti? Li picchio tutti i giorni. Non li picchio, li massaggio tutti i giorni. È un massaggio. Massaggio. Comincio da lei, per favore, subito dopo lei. Anche lei vedo che c'ha, insomma, fa un po' tecnologia. Sì, ti ringrazio. Hai chiesto come materiale didattico bastone, no? Mi porto il mio da casa, okay, grazie. Okay. Ti ringrazio Ezio, grazie. Grazie mille. Iper a posto, sin troppo. Sin troppo. E sono qua, quanti siamo ragazzi? Quanti siamo? E c'è gente ancora che deve finire, quindi sono iscritti, sono 17 più 2, 2, 3, guarda, fin troppi, ti ho detto. Vabbè, fin troppi, non lo prego io. Ciao, stai bene, ciao ragazzi. Riprendiamo. Allora, quando voi studiate le lingue, quando studiamo italiano, noi, gli altri, in genere, studiamo il paradigma verbale, ma c'è anche nelle lingue semitiche un paradigma, cioè il paradigma verbale è l'insieme dei modi e dei tempi, il paradigma nominale è l'insieme, adesso il paradigma nominale noi non sappiamo più, ma i latini ce l'avevano, i latini e diciamo i greci, quelli che hanno le lingue in cui ci sono i casi, vi ho detto, in cui i complementi vengono fatti con delle modifiche, sì, rosa, rose, rose, rosa, rosa, rosa, quando si impara il latino si imparano i paradigmi della parola rosa, sono paradigmi, eccoli qua, i paradigmi, questo è il paradigma. Questa è la dimensione paradigmatica del linguaggio. Non ci potrebbe essere linguaggio se non ci fossero queste liste, non parleremmo, non sapremmo cosa andare a scegliere, non sapremmo cosa andare a prendere. Questo è il paradigma. Il paradigma è ciò che sostiene da sotto il sintagma. Poi noi produciamo sintagmi, no? Produciamo, quindi... attenzione, ho detto associativo, adesso lui perché è per questo che il termine associativo è in realtà ambiguo, perché? Perché c'è una dimensione associativa tanto nel sintagma quanto nel paradigma, certo. Anche il sintagma associa, no? Oggi Caronia ha fatto una lezione noiosa. C'è un rapporto tra queste parole, c'è un'associazione, eh? Oggi, quando, chi, cosa ha fatto, eh? Ok, no? E abbiamo costruito il nostro sintagma, ci sono delle associazioni sintagmatiche. Le associazioni sintagmatiche sono quelle visibili, eh? Le associazioni paradigmatiche sono quelle invisibili, sono quelle che stanno dietro, sono quelle che reggono, però se non ci fossero loro, la lingua non potrebbe sussistere, la lingua non potrebbe sussistere. Punto a capo, basta, questo è tutto più o meno, tutto quello che dovete sapere su Saussure. È quello che vi è utile sapere su, diciamo, Saussure. Questo semplice, questo è stato un terremoto un secolo fa, ormai più di un secolo fa, nella linguistica dell'Occidente. Ha generato tutto, ha generato la semiotica, la linguistica strutturale, tutto quello che è avvenuto dopo, insomma. Adesso noi proseguiamo ancora perché il mio adesso vedrete che alcune delle cose che vi farà Loretta poi richiameranno questa differenza tra sintagma e paradigma. Quando Loretta vi parlerà di Jacobson e dell'asse della metafora e dell'asse della metonimia, voi riscoprirete con un'altra formulazione in realtà un concetto, sì, una coppia di concetti simile a quella di sintagma e paradigma. Vicinanza nel tempo dentro il sintagma, lontananza nelle retrovie, paradigma. I paradigmi, possiamo dire, sono le retrovie del linguaggio, no? Cioè sono ciò che sono gli accampamenti, eh? Se vogliamo usare una metafora bellica, i paradigmi sono gli accampamenti dove stanno ammassate le truppe linguistiche bene ordinate. I sintagmi sono le azioni belliche. Che brutto paradigma, che brutto paragone che faccio. In cui si prende qualcuno, si prende qualche fante, qualche cavaliere adesso. Più un cazzo di niente, perché ovviamente si prendeva qualche fante, qualche cavaliere, qualche geniere, qualche guastatore, ognuno dai singoli pezzetti di paradigmi, si mettevano insieme, si faceva una squadra, un battaglione, una cosa più grossa, e poi lì si andava. Sintagma, paradigma, non facciamo troppo i bellicisti. Allora, tutta la parte che sto facendo io, che sto costruendo, come dire, il filo rosso che lega tutte le cose che io vi dico, in realtà è un filo rosso che è una critica alla concezione ingenua del linguaggio. Per questo che ho scelto Saussure e ho insistito così tanto su una cosa che dice Saussure fino dall'inizio, no? Vi ricordate? Cioè, il linguaggio non è una nomenclatura. Io uso un'altra terminologia, perché forse non tende, diciamo, il linguaggio non è un'attività eminentemente referenziale, non è la referenzialità del linguaggio che ci interessa. Il linguaggio non descrive il mondo, non è nato per descrivere il mondo, anche biologicamente, ma voi pensate, cioè, il linguaggio non è una roba che ci ha donato Dio o qualsiasi altro essere che abbia deciso di interferire con la nostra vita. Cioè, è un frutto della evoluzione naturale, giusto? Allora, l'evoluzione naturale, secondo voi, a quale logica, diciamo, risponde? Perché la selezione naturale seleziona certi tratti in tutti gli animali, non solo in noi, no? Seleziona certi tratti e ne deprime certi altri col tempo, eccetera, eccetera. Che cosa sono i tratti caratteristici degli animali che sono esaltati, che sono rafforzati dall'evoluzione naturale? No. Cosa? Mutazioni. Sì, ma in base a cosa? Perché alcune mutazioni sopravvivono, altre no? Le mutazioni ce n'è un casino, no, non è così. Cioè, non è chissà perché, c'è una logica. Quelle che rendono le specie mutate più resistenti, migliori per la sopravvivenza nell'ambiente degli altri. Se la mutazione, migliora, diciamo, la performance di sopravvivenza della specie, è destinata a rimanere, perché coloro che ne sono portatori avranno più accesso al cibo, più accesso al sesso e più accesso a tutte quelle poche attività animali che servono per propagare il proprio genoma. Se invece le mutazioni, come sono la grande maggioranza dei casi, o non hanno un particolare significato, o addirittura deprimono, cioè abbassano il livello di adattamento all'ambiente, si perdono, perché gli individui che ne sono portatori mangeranno di meno, scoperanno di meno, e quindi trasferiranno meno di altri il proprio gene alle popolazioni successive. Tutto lì. Quindi tutto, allora, domanda: il linguaggio, secondo voi, si può considerare una mutazione positiva di un gruppo di scimmie un tot di centinaia di migliaia di anni fa o di milioni di anni fa, da allora ad oggi, sì o no? Sì, evidente, se no non sarebbe sopravvissuto anche soltanto 250.000 anni, non sarebbe sopravvissuto. Quelli che parlano, se parlare non desse qualche vantaggio a chi parla su chi non parla, quelli che parlano si sarebbero estinti da tempo, quelli che non parlano li avrebbero mazzolati sulla testa con dei mazzapicchi così grossi, non li avrebbero fatti magnare, non li avrebbero fatti scopare, non li avrebbero fatti di tutti i colori. Quindi questi qua, quelli che parlano, si sarebbero rapidamente estinti. Non ci siamo estinti, vuol dire che le specie che parlano, le scimmie che parlano, avevano un certo vantaggio evolutivo sulle scimmie che non parlano, tutto lì. Quindi il linguaggio è esattamente il risultato di una pressione naturale, fa parte, è un meccanismo darwiniano. Allora, è possibile che un meccanismo darwiniano, cioè che qualche cosa che migliora la performance di un animale nell'ambiente, sia la descrizione del mondo? È mai possibile che il carattere positivo, migliorativo, quello che aumenta la nostra performance, sia il fatto che noi sappiamo descrivere il mondo mentre mentre i gorilla no? E gli scimpanzé no? Ma cosa lo fa migliore? Non è che una specie nuova è migliore? Migliore nel senso che sopravvive meglio. Come? Non migliore. Si adatta meglio? Cioè, ok. Allora, l'adattamento, secondo voi, può consistere nella descrizione del mondo? Oh, non può consistere. Quindi è ovvio che il linguaggio ha altre funzioni. Ci ha aiutato la specie umana, è stata un fattore, dico miglioramento non in senso morale o in senso figura ma manco morto, miglioramento in senso adattativo, ci ha reso più adatti, cioè, e ci ha reso, adesso può darsi che noi abbiamo, può darsi che la corsa dell'uomo sia vicina alla capolinea, molti la pensano così, ma non per questioni catastrofiche, insomma generali, ma per una serie di motivi. Che poi un giorno, se volete, facciamo una lezione anche su questo, ma siccome c'è un po' di tempo per spiegarlo, adesso non ve lo faccio adesso. Comunque, l'idea che la specie umana sia vicina, vicina vuol dire alcune decine di miliardi di anni, non che noi stiamo tranquilli, che voi state tranquilli, insomma, non è che vi si estingue mentre vi dovete sposare o mentre dovete diventare direttori generali della Fiat, cosa che vi sconsiglio di fare in questo periodo, insomma, qualsiasi cosa sia di questo genere qua, non è così, insomma, è più lungo, però può essere che siamo al capolinea dal punto di vista, può essere questo, non c'è niente di male, non c'è niente di strano. Però perché l'ho detto, Silvana? Perché... diciamo che... dal punto di vista evolutivo, l'idea che il linguaggio sia prevalentemente uno strumento per descrivere il mondo, quindi una nomenclatura, come dice Saussure, è privo di senso. Non si giustifica, non c'è nessuna ragione per cui il linguaggio sia questo. Il linguaggio è uno strumento che aumenta, migliora la, come la possiamo chiamare, la performatività della specie umana. Per esempio, consente alla specie umana di, cosa che nessun'altra specie è in grado di fare se non ha il linguaggio, e quindi nessun'altra specie, perché nessun'altra specie ha il linguaggio è ciò che consente di trasferire da una generazione alla successiva un insieme di istruzioni di tipo tecnico. Una dimensione tecnica non è tipica degli esseri umani, ce l'hanno quasi tutte le scimmie superiori, quasi tutte le scimmie. Addirittura una parte è il castoro, abbiamo detto. Il castoro ha una dimensione tecnica sviluppatissima, costruisce dighe molto complicate, ma non è capace di migliorarle. Perché? Perché questa sua attività si basa puramente su un patrimonio genetico, quindi lui lo fa non solo senza alcuna coscienza, questo sarebbe il me che gli ci frega noi della coscienza, ma soprattutto non può migliorare, se non su tempi lunghissimi, la sua tecnica di costruzione della diga, non lo può migliorare, e ogni generazione la fa esattamente quello che... Quindi primo, no, ma se anche qualche castoro trovasse, che è possibile, non è mica strano, trovasse qualche metodo migliore per costruire una diga o per fare dei miglioramenti, come può comunicarlo ai suoi, lo può comunicare ai suoi vicini, a chi lo vede, certo, chi lo vede lo può imitare, ma il castorino piccolino, che il suo papà si inventa, c'ha un modo nuovo di costruire la diga, se il castorino è piccolino non se ne accorge, non lo vede, quando è grande si è già perso, nessuno gliela dice, no? Se invece il castoro parlasse, il castorone gli direbbe, vedi bambino mio, gli lascerò rompere i coglioni al povero castorino, gli direbbe, però in qualche maniera gli insegnerebbe, guarda, se metti lo stecchetto così, il coso così, il legno così, la tua diga viene meglio, no? E noi facciamo così. Noi abbiamo delle tecniche agricole che non dobbiamo, che avevamo adesso, non è che ogni generazione doveva inventarsela di nuovo, Quando si tratta la scrittura, addirittura abbiamo fatto ci sono dei libri, De Re Agricola, Varrone, in latino, in greco, le opere dei giorni di Esiodo, cioè ci sono delle opere, delle robe scritte che spiegano quali sono le tecniche agricole, quindi si tramandano da una all'altra. Cioè, anche se non ci fosse la scrittura, con la parola parlata, le generazioni si sentono. Quindi questo è il linguaggio. Qual è il problema del linguaggio? È che è una macchina, un dispositivo, un insieme di cose, eccessivamente potente per quello che deve fare. nelle cose della evoluzione, non è che uno, cioè, siccome se ci fosse il progettista, cazzo, se ci avesse ragione quel signore di Roma che di mestiere fa il Papa, se ci avesse ragione la religione, che c'è un disegno intelligente, eccetera, eccetera, allora uno potrebbe dire, costruisco uno strumento, costruisco quello che mi serve e non di più, perché c'è un principio di economia. Ma l'evoluzione naturale, no? Non ce l'ha questo principio di economia. Fa le cose così, escono così, escono per come devono uscire. Abbassamento della laringe, complicazione della ricchezza dei muscoli nella cavità orale, rigonfiamento della parete con le corde vocali che vibrano, insomma, queste cose qua, e soprattutto sviluppo del cervello. Voi sapete perché noi abbiamo una capacità cranica 3 volte maggiore di quella di un gorilla, di un scimpanzé? Perché abbiamo? Noi abbiamo una capacità cranica all'incirca di 1200-1300, tra 1200 e 1500 centimetri cubi, mentre uno scimpanzé, un gorilla, eccetera, anche più o meno delle nostre dimensioni, o poco meno, ne ha poco più di 500. Quindi noi abbiamo fino a 3 volte, come mai? C'è qualche ragione fisica per cui... sono tanti, ragazzi, 1200 contro 500, cazzo. Perché? Cioè, non può odore i vocali, certi vocali. Non c'è, Romy, non c'è nessun progetto intelligente, nessuno ha progettato questa cosa. Non l'ha progettata nessuno, quindi non... questa... Come lo vedo io, l'evoluzione. Perché credi in Dio, Dio, ma se l'evoluzione non c'entra nulla con Dio. Poi dopo tu, se vuoi, ce lo aggiungi, però devi trovare qualcosa che c'entri con l'evoluzione. Ma è una roba molto più semplice. Qual è la differenza fisica principale tra noi e uno scimpanzé? E un gorilla? E un orango? La stazione eretta. Il fatto che noi siamo bipedi. Il gorilla anche è capace di stare per 5 minuti bipede, però in genere cammina a 4 zampe. Che cosa implica questo sul cranio, secondo voi? Questo implica sul cranio, questa è la ragione. Implica che se noi avessimo il cranio dietro piatto, come ce l'ha lo scimpanzé e il gorilla, e se noi stessimo in piedi così, ci sarebbe uno squilibrio. Sarebbe difficilissimo camminare, perché ci sarebbe perché manca un bilanciamento meccanico. Quindi automaticamente quelli che hanno la stazione eretta tendono ad avere il cranio più grosso di dietro, per forza di cose, perché deve fare da bilanciamento puramente meccanico. Diceva Aristotele che la natura aborre il vuoto, quindi un certo numero di scimmie antropomorfe, 4 milioni e mezzo di anni fa, si trovarono ad avere una capacità cranica maggiore di quella delle loro sorelle. Certamente però con una massa cerebrale all'inizio uguale a quella loro. Ma siccome la natura, diceva Aristotele, non può sopportare il vuoto, che forse non è vero, ma insomma, adesso lo dico, questa è una buttata, no? Le cose sono andate così, cioè c'è dello spazio, il cervello è scivolato all'indietro e il corpo di questi esseri ha cominciato a produrre un surplus di cellule cerebrali, cioè di neuroni. Oltre alla corteccia, che hanno tutti i mammiferi, oltre al piccolo strato di neocorteccia che hanno in parte anche le scimmie antropomorfe, noi abbiamo sviluppato questa è una cosa, noi abbiamo dei lobi frontali, perché il cervello è scivolato all'indietro. All'indietro sono tutte le zone più antiche, c'è il cervello dei rettili, c'è l'ippocampo, c'è il cervello, tutte queste cose qua che ci avevano. E poi comincia tutta la nostra, tutte le nostre cosiddette funzioni superiori, dalla vista al linguaggio, eccetera, eccetera, stanno tutte in questa fascia di neocorteccia, cioè di strati neuronali superficiali che stanno nel lobo frontale e parietale principalmente, non nei lobi occipitali, che dietro sono le cose più vecchie. E questa è la vera ragione per la quale noi abbiamo. Allora, però, allora capite cosa voglio dire, no? Allora, però, con tutta questa roba qua, questa cosa è eccessiva per lo scopo, eh? Il linguaggio, questa capacità cranica, che genera questo dispositivo così complicato, così ricco come il linguaggio, è troppa roba, cioè è in grado di fare un sacco di cose di più di quelle che... come dire, di quelle che non sarebbero le sue le proprie funzioni immediate di miglioramento dello SCOA di sopravvivenza, quindi raccontare le tecniche, avere, diciamo, gestire della comunicazione intergenerazionale. E direbbe sempre Aristotele, sempre perché la natura aborrisce il vuoto, questa macchina si mette a fare delle altre cose, oltre a quelle indispensabili che ci assicurano. Queste cose sono descrivere il mondo, sono raddoppiare il mondo, creare mondi diversi, sono queste. Tutto quello che si può fare con il linguaggio si fa semplicemente perché c'è. Per nessun'altra ragione. Il fatto che sia divertente per noi, più o meno divertente, poi ognuno ha il suo divertimento, insomma nessuno di voi, non posso credere che nessuno di voi si diverte, chi si diverte a leggere, chi si diverte a scrivere, chi si diverte a parlare, chi si diverte ad ascoltare musica, ma la nostra vita sarebbe impensabile senza un rapporto con questo su, con questa dimensione, surplus con questa cosa. Però non è una dimensione che risponde a nessun progetto, naturalmente, certamente, è ovvio, chi crede nell'esistenza di una roba chiamata anima, spirito, eccetera, eccetera, ovviamente gli può mettere sopra un sacco di cose, così. Adesso io però, io non è che voglio dire che queste cose non esistono, dico solo che io vi do delle spiegazioni che prescindono dall'esistenza di queste sostanze, appunto, l'anima, lo spirito, tutte queste cose, che sono sostanze, no? Sostanze diverse, più o meno diverse dal corpo, eccetera. Bene. Allora, ma chissà perché, per quale ragione noi ci ostiniamo a pensare che la funzione fondamentale del linguaggio invece sia questa, cioè sia quella di descrivere, sia quella di fare la nomenclatura. Perché la Bibbia ci dice, o la Torah per quelli che... perché ci racconta questa storia che Geova, insomma, che il Dio della Bibbia piglia Adamo e gli dice nomina le cose, no? Questa è la radice, abbiamo visto, della concezione nomenclatoria del linguaggio. Ci sarà una ragione per cui ostinatamente c'è questa, non voglio chiamarla leggenda metropolitana, ma insomma questo modo di pensare semplificato, per cui però diminuisce la potenza del linguaggio, per cui il linguaggio servirebbe principalmente solo per questo, per nominare le cose, per dare i nomi alle cose, agli animali, alle piante, dice la Bibbia. Alle cose poi un po' più generale, ma probabilmente perché per, che è il modo, perché obiettivamente il linguaggio un po' si traveste così. Ma cioè, nella Bibbia, sia nella Torah, nella Bibbia, c'è scritto che i nomi sono dati per esattamente quello che ci diceva all'inizio, che diceva Susie, che è per fare le differenze. Ma questo non lo so, non lo so. È scritto così? Davvero? Sì, sei sicura? Sì, sì, sicuramente. Ce lo leggi? Ce lo traduci? In che lingua ce l'hai lì? In ebraico? No. Io non ce l'ho, cioè, allora, non sono religiosa. Portati, per allora fare la differenza fra il cielo e il mare. Ah, ok. Lo chiama in quel nome. No. Allora, no, io dico un altro pezzo. Appena, questo lo fa Dio, è Dio che, certo, Geova, separa, questo com'è in tutti i miti, separa la terra dal cielo, eccetera, nei miti greci Urano, che è il Dio del grande cielo, sta tutto il giorno addosso a... No, ma lì sto parlando proprio della parola che... E quindi di Adamo, quando arriva Adamo, non gli dice... Geova dice ad Adamo, ecco, questo è il tuo mondo, lo porta giù nel paradiso terrestre, nell'Eden. È scritto che dà i nomi per fare delle differenze, e così è scritto, cioè non è che... Sì, ok, dà i nomi alle grandi regioni del cosmo, certo, al cielo, alla terra, eccetera. Poi quando porta Adamo sulla terra, però io è al petto di Adamo che mi sto riferendo. Adamo viene creato perché? Uno dice, ma perché crea Adamo questo qua? Cioè non si capisce bene nella Bibbia. In realtà c'è la prima cosa che Geova dice ad Adamo è ecco, questo è il tuo mondo, adesso nomina, questi sono gli animali e le piante, nomina gli animali e le piante. È un compito che Dio delega ad Adam, cioè al primo uomo, io parlo di questo. Poi Dio fa delle cose anche prima, certo, però è un po' ambiguo, adesso non lo so, è un po' ambiguo, adesso io non quasi che la mia traduzione non fosse tanto buona, adesso non lo so, insomma, io la Bibbia l'ho letta nella la versione dei 70, quindi quella in una traduzione dalla traduzione greca, non l'ho letta neanche in greco, sono letta in italiano, tradotta in italiano. Quindi può darsi che l'abbia letta che sia tradotta male, non voglio dire. Adesso non mi ricordo bene che ci sia un'insistenza specifica sul tema del linguaggio in questa prima parte, cioè nei primi sei giorni, nei primi cinque giorni, scusa, della creazione, sono sei giorni, quindi il mondo viene creato in sei giorni, nella cosa. La prima volta separa la luce dal buio, poi le acque dal cielo, ce lo so, certo, che è chiaro, sì. Ma li separa fisicamente, io non mi ricordo chi gli dà dei nomi, può darsi che però mi sbaglio. Devo metterci un'occhiata anch'io, io molto interessante, anche, cioè quando parliamo della lingua, della linguista, c'è il termine semantica, no? Sì. Viene dalla parola semios. Semios. Viene da una parola greca, sì. Shem. Vabbè, cosa è Shem? È il Dio, no? Non credo che derivi da una... Non deriva da una cosa semitica, questo te lo posso assicurare. Non deriva dallo Shem semitico, no. Deriva da semios, che è un'altra cosa. Deriva dalla parola greca semios. Semios che vuol dire segno. Questo, semantica, deriva da lì. Ma non è la stessa... Allora, stai attenta perché si possono fare numerosi svarioni, si possono fare un sacco di errori sulle etimologie. Alcune sono reali, in questo caso ti dico di no, insomma. Cioè, interessa per cui... Sì, ho capito. Allora, casualmente c'è uno dei tre figli di Noè, che si chiama Shem, o Sem, o quello che sia, che è protagonista anche che ha una parte importante nell'ultimo romanzo di James Joyce, nel Finnegan's Wake, però questo Shem o Sem non ha niente a che fare con la né con la semantica né con la semiotica, che deriva da un'altra parola greca. Non so cosa farci, è così. Allora, torniamo al punto nostro. Quindi c'è una qualche ragione per la quale è così diffusa la non voglio dire leggenda, ma insomma la semplificazione del linguaggio come struttura che descrive il mondo, è perché il linguaggio tende a lui, esso, chissà cos'è, se è maschile, femminile o neutro, tende a nascondersi un po' così, cioè tende a darsi, è più semplice capirlo in quel modo che non in altri. Ma io sto cercando di inseguire in questa prima parte del corso nel flusso della linguistica del Novecento tutte le principali figure che hanno invece polemizzato, che hanno tentato di correggere questa divisione. Allora, 50 anni dopo Saussure, anzi insomma, tra meno e più, no, circa 50 anni dopo Saussure, che dal quale ci concediamo adesso, troviamo un altro personaggio, un'altra persona, che negli anni 50 del secolo insegna, attenzione, non è un linguista, è un filosofo, quindi non insegna linguistica ma filosofia del linguaggio. Il suo nome è John L. Austin, il quale muore nel 1960, e dopo 2 anni che muore, anche lui destino simile a quello di Saussure, esce un libro che comprende la trascrizione di un suo corso, di un suo corso di lezioni, e il titolo di questo libro, messo insieme dai suoi allievi, è How to do things with words. Come fare cose con le parole. Come fare cose con le parole. How to do things with words. Questa piccola opera, vedete che la mole però è molto importante perché è un passo successivo molto forte, forse anche più forse più forte anche quello di Saussure da certi punti di vista, perché mette in dubbio, per certi versi, ripeto, meno profondamente ma più praticamente e quindi più radicalmente a volte di Saussure, mette in crisi l'idea che il linguaggio non serve di seguire per descrivere il mondo, e ci arriva in maniera molto come tutti gli inglesi, perché allora intanto Saussure è ginevrino, quindi insomma, no, sempre scientifico anche lui, insomma, però diciamo un po' più rodomonte di Austin, cioè, gli inglesi sono molto, che proprio in inglese British fino al midollo proprio. Però per me è stato, quando l'ho letto, insomma, che non l'ho letto, ma cioè, una roba che mi sono messo a studiare 10 anni fa, questa roba qua, non tanto prima. Ed è molto divertente per me anche leggere, perché lui piano piano cioè, demolisce delle cose con grande compostezza, no? Cioè, in realtà butta delle. Allora, da che cosa parte Austin? Allora, questa operina di Austin è servita per piano piano, quindi siamo. Allora, l'opera esce nel 1961-62, quindi dopo un anno o due che lui è morto, ripeto, quindi è. Allora, nel 62, 2 anni dopo che è morto, dall'Oxford University Press. Proprio diviso in lezioni, sono 12 lezioni, e il libro è importante perché a poco dà luogo a una serie di ricerche successive che culminano nell'opera di un linguista, anche lui però mezzo linguista, mezzo filosofo del linguaggio, americano, che è John Searle, che scrive negli anni 70, a metà degli anni 70, fine 70, forse primi 80, un libro chiamato speech acts. Quindi capite, atti linguistici. Infatti questa teoria è nota col nome adesso di teoria degli atti linguistici, iniziata da Austin, sistemata e proseguita da sua sorella ancora vivente, e già il termine vi dice che cosa intende questa teoria. La lingua è azione, non è descrizione, sono atti. Questo invece negli anni c'è... Se fine 70-80. Cioè ci è voluto un po', ma neanche tanto, insomma in 20 anni di studi, poi ci sono molti altri autori in mezzo che non vi nomino, ma insomma diciamo questi sono i due, siccome l'inizio e la sistemazione. John Searle è quello che sistema questa teoria. Speech acts, atti linguistici. Quindi siamo sempre su una concezione del linguaggio alternativa a quella descrittiva, diciamo denotativa. Il linguaggio non denota, il linguaggio non descrive. Fa anche questo, ma è un effetto secondario di un'altra funzione più fondamentale. Il linguaggio, secondo Saussure, costruisce l'esperienza. Più specificamente, secondo Austin, il linguaggio serve per perfezionare almeno un certo tipo di azione, qualsiasi linguaggio. Adesso noi seguiremo un attimo, fra questa volta e la prossima, il punto di partenza e alcuni piccoli sviluppi, non posso ovviamente dare tutto, della impostazione di Austin. Non parleremo di quella di Searle, che è molto più complicata di quella di Austin, quindi, ma però già questo piccolo studio che faremo di Austin dovrebbe servirci per capire. Allora, Austin parte da una differenza che lui pone nella prima lezione. La prima lezione si chiama performativi e constativi. Allora, il sostantivo qual è? Deve essere un sostantivo. Allora, il sostantivo è sentence. Sentence che significa enunciato. Adesso vediamo perché è complicatissima la storia. Io ci ho messo un sacco per capire. Ma io perché io avendo fatto prima che studi di linguistica, ho fatto studi di logica, e quindi la cosa mi dov'è la nota di traduzione? Eccola qua. Ok, sì. Sentence ed è l'enunciato. E ciò, allora, enunciato vuol dire, sarebbe sentenza in italiano, ma non c'entra nulla, insomma. In inglese sentence è enunciato. Allora, quando io dico enunciato in italiano, che cosa intendo? Intendo mettere l'accento semplicemente sul fatto che sto parlando, giusto? Mentre se dico asserzione, che è quello che traduce in inglese statement, si capisce bene anche dall'inglese, vero? Statement. Asserire è una cosa più forte che non enunciare, giusto o no? Io posso enunciare, posso dire io dico Dio è onnipotente, per alcuni questo potrebbe essere un'asserzione, per me è un enunciato, visto che non credo in Dio, non mi impegno in nulla sulla verità espressa dalla frase Dio è onnipotente, quindi in questo caso per me sarebbe più una sentence, che no. Però invece un credente direbbe che è uno statement per lui, quindi Allora, comunque, diciamo là, poi c'è Atlas, ma ci complichiamo inutilmente, diciamo, la vita. Allora, in genere sentence è l'asserzione, allora ci sono delle asserzioni, o dei, no, allora ci sono, scusate, degli enunciati, diciamo in termini generali, degli enunciati, che sono constativi e degli enunciati che sono performativi. Singolare, devo mettere singolare anche qua. Allora, un enunciato può essere o performativo o constativo. Che cosa vuol dire che l'enunciato è constativo? Che descrive uno stato di cose, constato che le cose stanno così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Intorno al tavolo dell'aula ci sono sedute 11 persone. Questo è un enunciato constativo, Prendo atto, descrivo il mondo, descrivo un pezzo di mondo che è quest'aula, dal punto di vista del numero di persone che ci sono sedute intorno al tavolo. Noi siamo abituati a considerare che la gran parte dei linguaggi, degli enunciati di una lingua, se non tutti, siano constativi, no? Se ingenuamente siamo convinti che il linguaggio abbia prevalentemente una funzione descrittiva, diremo che tutti gli enunciati sono constativi. Allora, quindi Austin comincia col dire, può essere, non lo mette in discussione, però dice, attenzione, c'è una serie di altri enunciati che non sono proprio constativi, che non possiamo affatto decidere. Si libera subito di due, allora ci sono due altre categorie di enunciati che in effetti non si possono però neanche chiamare enunciati, perché sono forme linguistiche che è difficile, che non enunciano nulla, Per esempio, io entro qua e vi chiedo, avete un computer? Come vi ho chiesto prima, Cos'è avete un computer? Si può dire che è un enunciato constativo? Descrive uno stato di cose del mondo? No. È una domanda. Io butto lì una cosa e chiedo, qualcuno c'ha un computer? Che ore sono? Chi ha vinto ieri la partita tra Milan e Inter? Non so, partita. Chi ha scritto Ulysses? Come vi pare il direttore della Scuola di Nuove Tecnologie? Posso fare domande più o meno pericolose, più o meno... Sono tutte domande, no? Non c'è nessuno... Quindi una domanda chiaramente non è un enunciato. No, io non enuncio nulla. Quando chiedo. Quando chiedo cosa faccio? L'esistenza delle domande in una lingua è compatibile con la concezione denotativa, descrittiva, nomenclatoria del linguaggio? Il linguaggio descrive il mondo. Che ore sono? Ho descritto il mondo chiedendo che ore sono? Sì o no? No, certo che no. Ho fatto una domanda, mi sono informato, ho cercato di riempire un buco che ho. Non c'ho orologio, non so che diavolo di ore sono. Ho chiesto delle cose. Quindi già c'è un insieme di frasi, un insieme di produzioni linguistiche che non vanno bene, che non rientrano. Poi ce n'è un altro ancora peggio. Mi presti il computer? Chiudi quella porta. Vaffanculo. Che cosa sono queste? Descrivono il mondo? No. Sono richieste. Esortazioni. Emozioni. Ah, che emozioni. Vaffanculo ha una componente emotiva, ma io non so. Allora, vaffanculo letteralmente significa vai a fare questa cosa, è un ordine, è un comando che tu dai a uno, gli dici vai a fare in culo, vai a fare in culo. Poi è una metafora, certo, ma se tu la prendi letteralmente la frase, vuol dire vai a svolgere dell'attività sessuale anale, punto. Ma non è tu non descrivi nulla, non stai descrivendo nulla, stai dicendo a una persona di fare una certa cosa, in certi casi con, come dire, con una certa cortesia, glielo chiedi, eh? Mi presti il computer, per favore, magari, aggiungi anche per favore. Poi a poco invece dici chiudi con la porta. Vai a chiedere al bidello del gesso, grazie. Anche questo, ci sono varie cose intermedie, ma sono tutte forme linguistiche che indicano una, cioè in cui tu vuoi far fare delle cose a degli altri. C'è un'azione dentro di mezzo. La fanculo è complicato perché ovviamente poi adesso è diventato un modo di dire, quindi no. Però se uno il significato letterale è vai a fare dell'attività sessuale anale. Cioè quindi si dice a uno vai a fare una cosa in modo anche sgarbato, insomma, no? Certo, non garbato, insomma. È una parolaccia evidentemente, è un modo di dire. Allora, ci sono questi due. Ma Austin va più in là. Allora, ci sono, diciamo, i comandi, gli imperativi. Infatti, nelle lingue indoeuropee tutti i verbi hanno un modo specifico che si usa per esprimere questa modalità del verbo, il modo imperativo. Leggi, ama, apri, chiudi, vai, torna. C'è un modo, si chiama imperativo, è un modo specifico, quasi tutte le lingue europee ce l'hanno. L'iraniano ce l'ha un modo del genere? Per dire a uno fai questa cosa? C'è un modo particolare di declinare il verbo iraniano? Sì, c'è. Quindi c'è in Africa, anche l'iraniano è una lingua indoeuropea, quindi tutti ce l'hanno. Nelle lingue semitiche c'è un modo del verbo per dire l'imperativo? C'è. Sì, sì. C'è. Grosso modo c'è in molte lingue, sì, cioè adesso non lo so se c'è in cinese, o in coreano, in giapponese, in quelle lingue lì, se c'è un modo specifico, ma voi avete un'altra, avete tutto. La struttura delle vostre lingue è totalmente diversa, io non la conosco bene, quindi non posso, però tu pensaci, che cosa vuol dire comanda, fai qualche cosa, tu dici a uno fai questa cosa qua. Allora, ma Austin no, dice, vabbè, questo lo dà per scontato, Austin dice, guardate che ci sono degli enunciati che hanno la forma di enunciati e sembrano enunciati, però se uno li analizza vede bene che non sono enunciati. Leggiamo cosa dice lui, vediamo cosa ve ne pare a voi. Allora, c'è qualche cosa in un posto che può essere o una chiesa o un ufficio comunale o una nave in cui ci sono due esseri umani, in genere di sesso diverso, ma ormai comincia a esserci la possibilità anche che siano dello stesso sesso, e a un certo punto uno dei due dice sì. Inteso come sì, prendo questa donna o quest'uomo come mia legittima sposa. C'è un contesto che si chiama cerimonia nuziale e una persona enuncia questa frase, questo enunciato. Sì, prendo questa donna come mia legittima sposa. Prima frase. Seconda frase. Siamo in un porto. Vi descrivo il contesto, se no non si capisce. C'è una nave grossa, attaccata ancora alla terraferma. Una persona, in genere una gentile signora, con un cappellino molto di altri tempi e un elegante tailleur, prende in mano una bottiglia di spumante e la lancia contro la prua o la poppa di questa nave e dice: battezzo questa nave Queen Elizabeth. Siamo? Terzo caso. una persona non sta tanto bene, un vecchietto, fate conto che abbia la mia età, anche un po' di più, non sta bene, insomma, e dice, va bene, e quindi ha convocato al suo capezzale, non un medico, per tanto visto in quel caso, ma un notaio, e dice, adesso devo sistemare le cose, e parla a questo notaio, il notaio prende appunti, scrive delle cose, a un certo punto dice, questa persona dice, lascio il mio orologio in eredità a mio fratello. Lascio il mio orologio in eredità a mio fratello. Ok? Terza frase. Quarta frase. Qualsiasi persona dice, scommetto mezzo euro che domani pioverà. Ci vuole niente, ovviamente. Scommetto mezzo euro che domani pioverà. Allora, ve le ripeto, sì. Prendo questa donna come mia legittima sposa, battezzo questa nave Queen Elizabeth, lascio il mio orologio in eredità a mio fratello, scommetto mezzo cellino che domani pioverà. È soddisfacente descrivere questi enunciati come enunciati che descrivono qualcosa? Tu dici di no. No? È peggio di un'intenzione, se tutto va bene, se il prete non è finto, se la chiesa non è finta, eccetera, tu dici sì davanti a un prete o davanti a non solo la tua intenzione, tu dici sì e sei inguagliato, cioè sei sposato, cazzo, addirittura ha un effetto. Battezzo questa nave Queen Elizabeth, se la nave è quella giusta, se la madrina è quella che è stata reclutata per bene, se quella nave si chiamerà Queen Elizabeth da quel momento in poi, finché non si fa un'altra cerimonia con un'altra signora che rompe un'altra bottiglia di champagne, si chiamerà sempre Queen Elizabeth. Scommetto mezzo euro che domani pioverà, basta che tu sia disonesto e che non lo fa. Però se sei una persona onesta, domani guardi che piove, se non piove devi pagare mezzo euro al tuo amico. Sono tutte cose che hanno degli effetti. Sono tutti enunciati che non sono descrittivi, non sono constativi, sono performativi. Hanno la stessa forma grammaticale di un enunciato constativo, ma non sono constativi. Sono performativi. Attraverso, quindi ci sono, c'è una particolare categoria di produzioni linguistiche che non sono descrittive, che non descrivono un accidente di niente. Hanno degli effetti. In modo simile a quello che avevano le formule magiche in tutte le culture basate sulla magia, anche quelle più buffe, come per esempio il film Cenerentola, sì, di Walt Disney. Salagadula, Menci Cabula, Bibi di Bobby di Bu. Uno pronuncia queste frasi in quel mondo lì, e una zucca si trasforma in una carrozza. Cazzo, più performativo di così, Vabbè, poi c'è una regola, a mezzanotte ritorna zucca, va bene. Quindi esistono degli enunciati la cui funzione non è affatto quella di descrivere il mondo, ma quella di cambiare il mondo, quella di fare sì che due persone che erano separate fino a un certo punto, da un certo punto in poi risultino unite in un vincolo chiamato matrimonio, con degli effetti civili, religiosi, di vario tipo. Addirittura nel caso del testamento, addirittura abbiamo degli oggetti, in questo caso è un orologino, ma insomma gli orologi poi, siamo negli anni 50, ragazzi, gli orologi all'epoca erano ancora cose, adesso non, ovviamente nessuno lascerebbe più in eredità un cazzo, ma invece di un orologio uno può essere una casa, può essere una fabbrica, può essere una cosa molto più grossa. Ci sono degli oggetti anche di notevoli dimensioni che cambiano di mano, cambiano proprietà, accidenti, una la performance, no? Cioè, è tutto perché una persona, però attenzione, se lascio il mio orologio o lascio la mia fabbrica in eredità a mio fratello, la dice il signor Riva, diciamo, il proprietario dell'Ilva, quale adesso non trovo nessuno che accetti ovviamente come eredità una fabbrica di quel tipo, ma insomma, diciamo, se non lo dice nel contesto giusto, se non lo dice davanti a un notaio, se lo dice a un suo amico, la cosa non ha nessun effetto. Quindi sono degli enunciati, quasi tutti, pensateci bene, che hanno bisogno di un contesto un po' particolare, un contesto extralinguistico. Bisogna, il varo di una nave è qualcosa che va costruito in un certo modo, un matrimonio va costruito in un certo modo, un testamento va costruito secondo certe regole, che non sono solo linguistiche, ma anche extralinguistiche. Una volta però che io ho soddisfatto a queste condizioni, ho prodotto in tutti questi contesti, io produco quindi delle cose che si chiamano enunciati performativi. Vabbè, se il libro fosse tutto qua, abbiamo scoperto, ci sono alcuni enunciati, però sembrano come sempre in grande minoranza. Allora, questi enunciati, uno, non descrivono o riportano o constatano assolutamente niente. E quindi cosa vuol dire che non constatano niente? Che non possono essere veri o falsi. L'enunciato constativo io posso dire che funziona secondo la dicotomia vero falso. Vero vuol dire corrisponde allo stato di cose, falso vuol dire non corrisponde allo stato di cose. In performativo posso dire che corrisponde allo stato di cose vero o falso? Allora, voi dite dopo che ha avuto il suo effetto, sì, ma nel momento in cui tu lo dici, tu non sei, nel momento in cui tu rispondi sì davanti al prete, non siamo ancora marito e moglie, è una roba rapida, vede. Poi dopo lo saremo. Ma la cosa fondamentale allora, dire Antonio e Genoveffa sono marito e moglie, questo non è un enunciato performativo, questo è constativo, è descrittivo, allora quello sarà vero o falso. Ma l'enunciato sì, prendo questa signora Genoveffa come mia legittima sposa, posso dire che è vero o falso? No. Non è vero né falso, cosa vuol dire che vero o falso? Può avere effetto o può non avere effetto? Questo sì. Se non lo pronuncio nel contesto giusto, non ha effetto. Quindi io sono andato a dire, sì, prendo questa signora Genoveffa come mia legittima sposa, ma in realtà se quello che ho davanti non è un vero prete o un vero ufficiale di stato civile, o non è nell'esercizio delle sue funzioni, o è fuori orario, o è quello che sia, ma addirittura, ragazzi, pensate, io potrei essere un mascalzone, potrei essermi messo d'accordo con la famiglia o con che diavolo ne so, insomma, in qualche maniera, potrebbe essere che io abbia fatto questo matrimonio perché in qualche maniera mi conveniva, ad esempio mi danno dei soldi, io incasso questi soldi e una volta che li ho incassati me ne vado e la signora Genoveffa la lascio lì con un panno di naso e con le pive nel sacco, e come è andato? Ha avuto effetto questo enunciato performativo? Ha avuto un effetto buono? Ha realizzato ciò che prometteva? No. Se io dico scommetto 2 euro che domani piove, che domani non piove, e poi domani non piove, e poi domani piove e non mi faccio più vedere, e decido che i 2 euro al mio amico con cui ho fatto la scommessa non glieli do perché sono un mascalzone, me ne vado via, eccetera, ha avuto effetto questa cosa o no? No. Ma vedete che non stiamo parlando di vero fallo, in nessuno di questi casi posso dire quell'enunciato allora si è dimostrato falso. No, non si è dimostrato falso. Sono altre categorie che bisogna. Allora, Austin decide di chiamare il grado di realizzazione di un enunciato performativo, lo chiama felicità. Attenzione, specie per chi non è italiano, non vuol dire felicità, è inglese, ma nel senso, Antonio e Genoveffa sono felicemente sposati. Felicemente sposati non vuol dire che sono felici, vuol dire che sono sposati secondo le regole, quindi sono davvero sposati, quindi che il loro impegno è andato bene, ha avuto buon esito. Avere buon esito vuol dire, in questo caso, questo è il modo, essere, diciamo, felici. Quindi un enunciato performativo può essere felice o infelice. E le cause di infelicità possono essere le più diverse. Può essere che io non ho rispettato le regole extralinguistiche che devo rispettare perché quell'enunciato si realizzi felicemente, appunto. Tipo, non sono andato in chiesa, non ho fatto testamento davanti a un notaio, eccetera. Oppure può darsi che io abbia già fino dall'inizio deciso di infrangere questo legame tra la parola e, diciamo, l'azione, e quindi per esempio ho fatto una scommessa per farmi bello, però poi non ho intenzione di onorarla se la perdo, oppure ho intenzione di lasciare mia moglie dopo 2 mesi, o dopo 1 mese, o dopo 1 settimana, o quando diavolo mi pare a me, cioè in qualsiasi modo, o perché qualcuno non ha rispettato oggettivamente delle regole, o perché non ha intenzione di rispettarle soggettivamente, l'enunciato performativo può essere infelice. Però, a prescindere dal fatto che, appunto, non siano veri o falsi, il punto fondamentale di un enunciato performativo è che l'atto di enunciare la frase costituisce l'esecuzione o è parte della esecuzione di un'azione, che peraltro non verrebbe normalmente descritta come o soltanto come dire qualcosa. Allora, detto questo, Austin si domanda, ma allora dire può essere fare? E dice, dobbiamo dire allora cose di questo tipo? Sposarsi è dire alcune parole? Oppure scommettere è dire qualcosa? E dice, una simile teoria sembra strana o all'inizio anche irriverente, ma con le dovute cautele essa non sarà più tanto strana. Una valida obiezione iniziale ad esse può essere questa, che non è priva di importanza. In moltissimi casi è possibile eseguire un atto esattamente dello stesso tipo, per esempio sposarsi, non emettendo delle parole in forma scritta o orale, ma in qualche altro modo. Per esempio, in alcuni paesi posso contrarre matrimonio mediante la coabitazione. Coabito con una, dopo, mettiamo, 6 mesi, è come se fossimo marito e moglie. Siamo marito e moglie da un punto di vista legale. Oppure posso scommettere, non davanti a una persona, ma con un totalizzatore, siamo negli anni 50, pensate, inserendo una moneta in una fessura. Posso fare un video, questo oggi è una roba diffusissima. Dovremmo allora forse cambiare le proposizioni qui sopra e trasformarle in dire alcune determinate parole è sposarsi, oppure sposarsi in alcuni casi è semplicemente dire alcune parole, oppure semplicemente dire un certo qualcosa è scommettere. Ma probabilmente la vera ragione per cui tali osservazioni sembrano pericolose sta in un altro fatto ovvio, sul quale dovremo tornare dettagliatamente in seguito, che è questo. L'atto di enunciare le parole è infatti di solito un o addirittura il fatto dominante nell'esecuzione dell'atto di scommettere o altro, l'esecuzione del quale è anche l'oggetto dell'enunciato. Attenzione, cioè capite che c'è un loop, c'è quasi un circolo vizioso, no? Quindi l'esecuzione, cioè l'atto di enunciare le parole è il fatto dominante nell'esecuzione di un atto la cui esecuzione è anche l'oggetto dell'enunciato. Ma non è mai solitamente l'unica cosa necessaria affinché l'atto sia considerato eseguito. Cioè, nell'atto performativo c'è sempre l'unione di una componente linguistica, le parole che si pronunciano, e di una componente extralinguistica, il contesto. Devo stare in una chiesa, devo stare davanti a uno, no? Quindi c'è sempre linguaggio, extralinguaggio. E quindi questo è delicato. In generale è sempre necessario che le circostanze in cui vengono pronunciate le parole siano in un certo modo o più modi appropriate. Le circostanze devono essere appropriate, giuste, noi possiamo dire in termini un po' più banali, ma appropriate meglio. Ed è generalmente necessario che o il parlante stesso o anche altre persone eseguano anche certe altre azioni, azioni fisiche o mentali, o anche atti consistenti nel pronunciare altre parole. Così, per esempio, per battezzare la nave, è indispensabile che io sia la persona designata a battezzarla. Se all'ultimo momento arriva un'altra signora, perché c'ha i cazzi girati, e decide che non vuole che sia quella madrina lì, gli dà uno spintone di lato, piglia la bottiglia, la butta su e dice, ti battezzo qui nelle... Il varo non è, la nave non è battezzata, perché non è la signora che l'organizzazione del porto, la proprietà della nave, eccetera, ha deciso che fosse, chiaro? La nave non risulta battezzata, perché no, quel gesto lì non l'ha fatto la persona che avrebbe dovuto farlo, l'ha fatto un'altra persona. Quindi, dopodiché, basterà prendere un'altra bottiglia, eccetera, eccetera, lo fa rifare a quella e c'è la posta. Però quella persona lì, idem nel caso della scommessa. Poi c'è anche l'effetto delle testimonianze. Delle testimonianze, ok, certo. Allora, ci deve essere qualcuno, brava, giusto? Questa è una, è per esempio, ci deve essere qualcuno che testimonia, cioè che fa, che svolge il ruolo di uno che non dice nulla, però guarda e sta lì, e se non c'è lui, per esempio nel matrimonio, se tu non hai almeno una persona per la parte dello sposo, una la parte della sposa, che testimonia, quindi è che quindi poi mette una firma su un registro, quindi vuol dire se non mette la firma dovrebbe essere in grado ogni volta di dire, gli chiedono ma è vero che Antonio e Genoveva si sono sposati, e lui o lei risponde sì, lo so perché io c'ero, l'ho visto, quindi è uno di cui ci devi fidare. Cioè, quindi ci sono tutte questo genere di cose qua. Allora, per sposarsi nel matrimonio cristiano è indispensabile che io non sia già sposato con una moglie vivente, sana di mente e non divorziata. C'è il bigamo, se io vado lì, se io non fossi divorziato, quindi fossi ancora sposato come ero tanti anni fa, e vado da un prete o da un coso, eccetera, e lo inganno, gli dico che non sono sposato, eccetera, il matrimonio non è valido, perché non mi sarei, in realtà io sono divorziato, quindi in chiesa non vale, ma in cosa. Perché sia stata fatta una scommessa, è generalmente necessario che la proposta della scommessa sia stata accettata da chi la riceve. Dice, scommetto che domani piove, va bene. Se quello non ti risponde va bene, ci sto, la scommessa non c'è, sei tu che hai provato a farla, ma l'altro non te l'ha, non te l'ha detto. Una azione espressa da questi enunciati performativi, dice, non deve essere uno scherzo, né deve essere parte di una poesia, ma noi siamo inclini ad avere la sensazione che la loro serietà, di questi enunciati performativi, consista nell'essere pronunciati come segno puramente esteriore e visibile, per le convenzioni di, per le convenienze o di un altro tipo di ufficialità, per informazione, di un atto interiore e spirituale. Da qui il passo breve per arrivare a credere o ad assumere, senza accorgercene, che per molti versi l'enunciazione esteriore sia una descrizione, ecco perché ci sembra vera o falsa, dell'avvenuta esecuzione interiore. Nell'Ippolito di... Sofocle di Euripide, accidenti. Che buco in testa che ragazzi. Nell'Ippolito è di Sofocle. A un certo punto Ippolito dice: glossa monox, va bene, nella sua parte greco, dice: la mia lingua ha giurato, ma il mio cuore no. Lui ha fatto il giuramento, ha giurato di essere. Credo che si riferisca al giuramento che fa ad Artemide di non fare mai attività sessuale, cioè di continuare a, a fare il seguace di Artemide, eccetera. E però dice, ho giurato con la lingua, quindi ho, ma il mio cuore non ha, cioè, ho giurato. Questa è una situazione complicata, perché allora è valido questo giuramento? C'è una riserva mentale. L'ho girato perché, vabbè, perché tutti sono contenti così, che io sono un giovanotto che fa il cacciatore e non, e in questo modo riesco a subire anche la mia matrigna, mi vuole scopare, che è Fedra, e bla bla bla, eccetera. Ma funziona davvero? Ci siamo? Non ci siamo? Perciò prometto di, mi obbliga, registra la mia assunzione spirituale di una costrizione spirituale. È gratificante osservare in questo stesso esempio come l'eccesso di profondità, o meglio di solennità, apra immediatamente la via all'immoralità. Infatti colui che dice promettere non è soltanto questione di pronunciare delle parole, come implicitamente dice Ippolito, è un atto interiore e spirituale, sembra un serio moralista che si oppone a una generazione di teorizzatori superficiali. Noi lo vediamo come lui vede se stesso, mentre scruta le invisibili profondità dello spazio etico, con tutta la raffinatezza di uno specialista sui generis. Perciò egli fornisce ad Ippolito una scappatoia, al bigamo una giustificazione per il suo sì, a chi non paga una difesa per la sua scommessa. La scrupolosità e la moralità sostengono allo stesso modo il detto comune che ogni promessa è debito. Se escludiamo che gli atti interiori fittizi come questo, se escludiamo gli atti interiori fittizi, ma cioè se ci basiamo solo sulla parte pubblica di questi enunciati, possiamo supporre che qualcuna delle altre cose che sicuramente sono normalmente richieste per annunciare un, per accompagnare un enunciato come prometto che, oppure sì, prendo questa donna, eccetera, siano di fatto descritte da questo e conseguentemente con la loro presenza lo rendano vero e con la loro assenza falso? Bene, partendo dal secondo caso, la prossima volta esamineremo ciò che effettivamente diciamo dell'enunciato in questione quando uno dei termini, dei suoi normali fatti concomitanti, è assente. In nessun caso noi diciamo che l'enunciato era falso, ma piuttosto che l'enunciato, o meglio l'atto, per esempio la promessa, era nullo. È vero? Noi diciamo il matrimonio è nullo, Il Tribunale Ecclesiastico della Chiesa di Roma, la Sacra Rota, annulla i matrimoni, non dichiara divorzi, li dichiara nulli. Cioè dice, c'era qualche cosa, va a vedere cos'era, come è stato fatto questo matrimonio, e per esempio, cosa che noi possiamo chiaramente pensare che siano cavilli, eccetera, ma dal punto di vista Allora, per esempio uno dei delle più comuni cause di annullamento matrimoniale, per esempio, è quella, dice, i due coniugi o uno dei due non aveva in realtà l'intenzione di avere figli. Siccome nella concezione cristiana cattolica del matrimonio, il matrimonio serve, se non soltanto prevalentemente, per avere figli, se tu hai una riserva mentale che non vuoi fare figli, e riesci a dimostrarlo, questo è il problema. Ma una riserva fisicale anche. Una riserva mentale. No, ma dico. Sì. È una coppia che sta per sposarsi. Sì. Né uno non ha la possibilità di avere i bambini, si può cancellare il matrimonio. Io fisicale, credo di sì, è stato fatto. Sì, è stato fatto. È stato fatto. Ma si fa anche in condizioni peggiori, c'è anche in condizioni. Allora, adesso non vorrei sbagliare, ma addirittura forse il caso, se c'è un figlio davvero è molto molto difficile. Ma insomma, se ci sono, diciamo, le ragioni reali per cui i figli non ci sono possono essere le più varie. Ma se tu vai, se hai un buon avvocato e questo avvocato argomenta bene di fronte alla corte ecclesiastica, al tribunale ecclesiastico, che il marito o la moglie non avevano l'intenzione, no, ma loro non avevano, ci sono delle testimonianze, si portano testimonianze, no, sì, me l'ha detto a me quando era più giovane, sì, non voleva avere figli, no, me l'ha detto anche a me, non voleva avere figli. Tu porti una serie di testimonianze, robe scritte, cose orali, eccetera, e dici, ah, va bene, allora la codice va bene, allora io vuol dire che mancava una delle condizioni interiori, interne di uno o di tutti e due, ma anche basta solo di uno, credo. Ma non vale per lo Stato. No, per lo Stato giustamente. C'è un altro sistema. Lo Stato giustamente se ne frega. Lo Stato non collega, perché ci mancherebbe altro che collegasse la sessualità con la procreazione. No, dico un matrimonio che si è cancellato della Chiesa. Sì. È ancora valido comunque dallo Stato se no. Non ha fatto no. È cancellato da tutto. Allora no, aspetta, no, allora. Adesso cerco di ricordare io, perché io ero sposato in chiesa, quindi non perché sia mai stato cristiano nella mia vita cosciente, ma lo era lei, quindi ho detto, se vuoi che si può andare in chiesa. Allora, io poi noi abbiamo fatto la separazione legale e il divorzio in comune. In tribunale, e dal tribunale automaticamente è passato anche, quindi adesso io risulto comunque il mio legame, però per la Chiesa, siccome per la Chiesa il matrimonio è eterno, sì. Non gliene frega niente a lei che tu ci sia, no? Sì, dice tu, io allora, lei mi considera, io no, no, non posso riprovarmi, a parte che non ci penso neanche morto, ma insomma non posso ritrovarmi in chiesa, mentre potrei volendo ritrovarmi in comune. Ora stavo pensando, questo non sono sicuro, non lo so bene com'è, se tu vai, tu non puoi andare, tu puoi andare, ah sì, credo che ci sia un accordo tra il tribunale della Sacra Rota, come si chiama, cioè se tu ti fai annullare il matrimonio dal tribunale ecclesiastico, credo che automaticamente in Italia, e ci mancherebbe altro che in Italia non fosse così, cioè c'è un rapporto tra lo Stato italiano e il coso, per cui automaticamente viene annullato anche quello, diciamo, civile. Allora, finiamo questa roba. Allora, falsa promessa, malafede, nullità dell'atto. Inoltre noi non parliamo di una falsa scommessa o di un falso battesimo. Il fatto che parliamo di una falsa promessa non deve compromettere più del fatto che parliamo di un patto falso. Falso non è necessariamente usato per le stesse asserzioni. Allora, ci fermiamo qua, anche visto che tutti avete qualcosa da fare. Anche io sono stanco, quindi non è che sia. Allora, la volta prossima finiamo... lunedì prossimo finiamo con, vi leggo altre due cosettine, no, però vi dico solo che cosa fa, qual è l'operazione di perché lui parte da qui ma poi ne fa di ben peggio. Il passo successivo consiste nel dimostrare, nel mostrare, nel far vedere che in realtà questa cosa, cioè che diciamo gli effetti pratici del linguaggio, chiamiamoli così, in realtà si estendono ben al di là di questi enunciati performativi. E praticamente per tutto il corso del libro Austin non fa altro che svuotare di significato il termine di enunciati constativi. Praticamente la conclusione del libro è che nessun enunciato è realmente constativo, ma che tutti gli enunciati hanno una componente più o meno forte, di azione. Sono parlare e agire, detto in altri termini. Il linguaggio è una forma di azione. Ecco perché poi c'è teoria degli atti linguistici. Cioè, il linguaggio ha degli effetti nel mondo, non descrive il mondo. Il linguaggio, è quello che vi continuo a martellare sino all'inizio, il linguaggio crea il mondo, in qualche maniera. Non esiste un mondo indipendente dal linguaggio. Non è possibile, nessun animale che non abbia un linguaggio ha un mondo. L'unico animale che ha un mondo siamo noi esseri umani. Poi certo esiste qualcosa chiamato realtà, ma non, il rapporto specifico, no? Di azione e reazione che c'è tra noi e il mondo, ce l'abbiamo solo noi, perché siamo solo noi esseri umani, perché siamo animali linguistici e non animali non linguistici. Vi saluto.